sulle vette della santità, pazienza e mortificazione, la pazienza nella sofferenza di spirito. L'amore della povertà e dei poveri nel curato d'Ars poteva essere anche semplicemente una virtù naturale derivante dal suo temperamento portato alla compassione. Ma egli ebbe in sé anche un'altra virtù, la pazienza, che non ebbe in dono dalla natura, essendo di carattere rude e impetuoso. Lunghi ed eroici sforzi lo trasformarono al punto da lasciare credere che fosse senza passioni ed incapace di adirarsi. Coloro che lo hanno potuto avvicinare con frequenza hanno osservato facilmente come fosse viva la sua immaginazione e bollente il suo carattere. Predicando diceva: «Figli miei, vi lagnate di non poter praticare la pazienza, eppure la vivacità di carattere è comune a tutti gli uomini». «Reverendo», gli chiedeva Don Raimond, «come potete rimanere sempre calmo con la vivacità del vostro carattere?» «Amico mio, la virtù domanda coraggio, violenza continua a se stessi e soprattutto l'aiuto dall'alto. Difatti ci volle per lui un tirocinio lungo e penoso per conseguire la virtù della pazienza che formava l'ammirazione di quanti lo osservavano. Questa dote, dice il conte di Garez, mi colpì e mi impressionò più che le altre, né io credo sia possibile possederla in misura più elevata. Lo vidi sempre uguale a se stesso, cortese, qualunque fosse il contegno tenuto nei suoi confronti». Fratello Atanasio aggiunge: «Io penso che se la virtù non lo avesse temperato, molto facilmente sarebbe stato vittima dell'ira. Bastava osservarlo per accorgersi dello sforzo che gli era necessario per contenersi. Io stesso me ne avvidi da indizi quasi impercettibili. Qualche volta, quando persone moleste lo irritavano, stringeva il fazzoletto che per abitudine aveva sempre in mano. Poteva anche vedere quale costrizione si imponesse per frenare l'impazienza. Era però necessario conoscerlo molto bene per rendersene conto. Era di una sensibilità estrema, per la qualcosa nascevano in lui involontarie antipatie che solo la carità sapeva frenare e nascondere. Abbiamo osservato spesso, dice Martha Mead, che in presenza di alcune persone doveva farsi violenza, ma non ne fece mai parola ad alcuno. Per accorgersi delle tempeste del suo spirito bisognava cogliere l'espressione del suo viso ed il lampo fulmineo dei suoi occhi. Ben si vide ciò per qualche istante il giorno in cui fu nominato canonico, quando fratel Gerolamo venne a pregarlo di recarsi nel coro con la mozzetta. Della sua pazienza rimangono ricordi mirabili. Un giorno, dice il maestro Giovanni Pertinan, sorpresi ad insaputa del curato un ragazzo che stava rubando le elemosine delle messe. Insieme al sindaco mi recai ad avvertire i suoi genitori. La madre del fanciullo, informata, pensò che la denuncia all'autorità fosse stata fatta dal curato e il mattino seguente lo avvicinò in sagrestia e gli rivolse i più aspri rimproveri. Io, che me ne stavo nella chiesa vicino alla porta, intesi una sequela di calunnie e la risposta del santo: «Avete ragione, pregate per la mia conversione». Caterina Lassagne, nel suo Petit Memoir, così scrive: «Ho inteso dire che nei primi anni della sua vita fra noi si recò da lui un uomo di Ars che gli rivolse ogni sorta di ingiurie. Il santo lo ascoltò senza dire parola e per delicatezza volle accompagnarlo ed abbracciarlo quando se ne partì. L'atto gli fu così gravoso che a stento poté risalire alla sua camera e quando si gettò sul suo letto aveva segni evidenti dello sforzo sostenuto. È stato osservato più volte che ascoltava con calma un linguaggio anche rude, ma nel suo corpo passava un tremito. La ragione la spiegò egli stesso dicendo: «Quando si è vinta una passione, le membra tremano». Un giorno, afferma Gianna Maria Chennai, ebbe una grave contrarietà alla provvidenza. La sentì così vivamente che egli stesso, sia pure con grande calma, ci disse: «Se io non volessi convertirmi, mi arrabbierei». «Ho saputo», dice Andrea Trev, «che Don Vianney ricevette un giorno uno schiaffo e che disse: "Amico mio, l'altra guancia è gelosa". Vi era un'altra circostanza che contribuiva a mettere a dura prova la pazienza del curato d'Ars. Quando era circondato dalla folla in mezzo alla quale ebbe spesso occasione di far violenza a se stesso. Alcuni avevano fretta di vederlo e di parlargli, altri, dopo essere stati con lui, sentivano il bisogno di avvicinarlo ancora, ed in questo modo, osserva il canonico Gardet, attorno alla sua persona si formavano correnti opposte che lo tiravano in ogni senso. Ma ciò che meraviglia è il constatare come, anche schiacciato e quasi soffocato, apparisse sempre angelo di carità e di mansuetudine. Si potevano leggere i segni della stanchezza fisica impressi sul suo volto, ma invano si sarebbero cercati segni di disappunto, quantunque la vivacità del suo temperamento dovesse rendergli penosa ogni contrarietà. Aveva pochissimo tempo e si imbatteva in persone che lo trattenevano con ripetizioni noiose. Sapeva i bisogni reali di tante anime e lo si fermava per dirgli cose insignificanti. Tutto ciò non riusciva a fargli perdere quella carità fatta di pazienza e di dolcezza che lasciava tutti contenti. Più di una volta è successo che fosse chiamato in sagrestia quando una cinquantina di persone ed anche più circondavano il suo confessionale. Anche allora si arrendeva ai desideri importuni ed ascoltava senza il minimo segno di impazienza quantunque lo si fosse incomodato per motivi di poco conto. Un giorno in cui i pellegrini si stringevano numerosi attorno al suo confessionale, lo si vide uscire 3 volte per dare la comunione a 3 persone che avrebbero potuto presentarsi insieme. Non ebbe né un lamento né un rincrescimento. Un testimone di questa scena ne fu così colpito che uscì di chiesa gridando, perché anche gli interessati potessero capire: «Sono in collera con il curato che è troppo paziente!» Vedendolo sempre così calmo, Don Toccania gli disse: «Signor curato, perfino gli angeli al vostro posto perderebbero la pazienza. Io sarò obbligato ad impazientirmi per voi». Ma le importunità sembrarono superare la misura un giorno del 1854, quando al suo ritorno alla canonica, dopo la predica delle 11, si videro i pellegrini accorrere per tagliargli pezzi di cotta ed anche ciocche di capelli. Alcune persone, profondamente indignate, gli gridarono: «Reverendo, dovreste mandare a spasso tutta questa gente, al vostro posto schiatteremmo per la rabbia». Ed il santo rispose: «Dio mio, sono 36 anni che mi trovo in Ars e non mi sono mai arrabbiato. Sono troppo vecchio per incominciare ora». I preti stessi ammiravano questa pazienza. Don Gerin, parroco della cattedrale di Grenoble, che il curato d'Ars chiamava cugino, rimase ore intere a contemplare lo spettacolo della pazienza e della dolcezza del santo importunato dalla folla. «Osservai da vicino il servo di Dio», dice Don Taillad, «per leggere sul suo viso qualche moto di impazienza, ma non mi riuscì di scoprirlo, perché anche in mezzo alle indiscrezioni più provocanti mi parve dolce, sorridente e sempre uguale a se stesso. Quando gliene feci parola mi rispose: "Che devo fare? Ad adirarmi non guadagnerei nulla. Quanto è bene dunque che un sacerdote si offra a Dio donandogli anche i suoi disappunti". Cosa assai difficile in una virtù come la pazienza è il mantenersi sempre uguale, non solo in mezzo alla folla, ma soprattutto nella cerchia delle persone che si avvicinano ogni giorno e il cui contatto è provocante e fastidioso. Sta qui la pietra di paragone della pazienza, come è qui che la pazienza riporta i suoi trionfi più considerevoli. Ebbene, per 8 anni, e cioè dal 1845 al 1853, la pazienza del curato d'Ars ebbe modo di temprarsi nelle relazioni con Don Raimond, suo primo vicario. Parlando di lui, Caterina Lassagne, ingenua e fine, dice che lo considerava come inviato da Dio ad esercitare la pazienza del suo servo fedele. Nominato vicario di Don Vianney, si considerò piuttosto come suo tutore. Questo giovane prete, che aveva 20 anni meno del curato d'Ars e che era stato beneficato da lui durante il periodo degli studi in seminario, era di buon spirito e zelante nell'adempimento del proprio dovere, ma gli mancava un po' di tatto. Se ne ebbe la prova fin dal primo giorno in cui fu ad Ars, quando con la massima indifferenza prese per sé la camera del curato, così che il santo si accontentò di un locale umido ed oscuro del pian terreno. Ma i buoni parrocchiani di Ars gli fecero capire che sarebbero intervenuti se non avveniva un cambiamento. Don Raimond provvide allora a trasferirsi in una casa vicina, lasciando al curato la sua camera. Questo primo vicario, che era stato chiesto da Don Vianney, pensava di sostituire il santo, di prendere la direzione del pellegrinaggio e di farsi nominare parroco di Ars. Evidentemente non aveva pensato che alla partenza di Don Vianney Ars sarebbe ricaduto nell'oscurità durata fino al 1818. Di carattere aspro, fermo nelle sue decisioni, non alieno da una certa pretesa di ingegno e di eloquenza, trattò il curato suo superiore benefattore con durezza, senza riguardo alla sua età e alla sua santità. Basti ricordare che più di una volta si permise di rimproverare Don Vianney perché non gli diceva tutto o perché non dirigeva il pellegrinaggio secondo le sue vedute. Giunse perfino a disapprovarlo apertamente dal pulpito. Diremo solo a sua giustificazione che non si rendeva conto di quali pene la sua condotta così rude fosse causa. È impossibile immaginare il dolore arrecato al cuore del santo da una simile condotta. Nei primi giorni, secondo l'impressione di Caterina Lassagne, il santo, scoprendo un carattere opposto al suo nel giovane prete che aveva già aiutato fin dal tempo degli studi, tentò di resistere, ma comprese immediatamente che ciò avrebbe servito ad irritarlo di più e si rassegnò ad informarlo dei casi che potevano interessare la parrocchia, a consultarlo in molte circostanze ed a seguire il suo parere là ove gli fosse stato possibile. In più, non dimentichiamo di aggiungere che il curato di Ars amò sinceramente il suo vicario, tanto che questi ebbe in seguito a dire: «Non ho che un rimorso, è quello di non aver approfittato abbastanza dei suoi esempi. Faccio tuttavia segnamento sull'amore paterno che mi ha sempre dimostrato». Il curato d'Ars difese il suo vicario in ogni occasione e non tollerò mai che lo criticassero in sua presenza. In alcuni casi le mene di Don Raimond non restarono ignote alla popolazione che prendeva le parti del curato. Anche in simili circostanze il santo diceva ogni bene del suo vicario e per essere sicuro di ottenergli il perdono ripeteva con insistenza: «Se gli date dei dispiaceri partiremo insieme». Monsignor de Vie aveva mandato Don Dubois, parroco di Farens, perché facesse un'inchiesta sul modo col quale Don Raimond trattava il suo superiore. Anche in questa occasione si vide il santo supplicare: «Oh, lasciatemelo, mi rivela le mie mancanze». E dagli intimi aggiungeva: «Quanta riconoscenza gli devo, senza di lui mi sarebbe stato difficile conoscere che amo un po' il Signore». E più tardi si confidava al pio canonico Camelet, superiore dei missionari: «Voi non mi rimproverate mai ed io non mi trovo più bene come prima». Il 24 marzo 1848, scrivendo a Monsignor de Vie per invitarlo a benedire la cappella della Provvidenza, non dimenticava di aggiungere una parola di lode per il suo vicario: «Non ho nulla di particolare da dire a Vostra Eccellenza di Don Raimond, tranne che merita nel vostro cuore un buon posto in ricompensa della bontà che ha per me. Non credete alle cattive lingue ispirate dalla malizia». Ma vi era anche chi domandava se si poteva tollerare in Ars un prete che si rendeva oggetto di lamentele fondate. Pie persone ritennero conveniente parlarne al curato, al quale spiegarono che si trattava di uno stato di cose già troppo tollerato. Don Vianney ne fu impressionato e incaricò fratello Atanasio di scrivere una lettera a Monsignor de Vie nella quale dovevano avere risalto anche i meriti di Don Raimond, perché gli fosse accordato un buon posto. Gli fu presentata la brutta copia ed egli, dopo averla letta, si concentrò in rapida riflessione e quindi la stracciò dicendo: «Ho pensato che il Signore ha portato la sua croce in questi giorni, era la Settimana Santa, ed io posso ben fare come lui». Un giorno aveva consentito che il conte di Garez ne facesse parola al vescovo in un colloquio che doveva aver luogo a Bourg. Però al momento propizio il santo aveva già mutato avviso e quando il sindaco espose, motivandole, le ragioni che dovevano indurre il vescovo ad una rimozione, questi poteva già presentare una lettera del curato il quale lo pregava di lasciargli ancora per qualche tempo il suo caro Don Raimond. Fortuna volle che il vicario comprendesse che la sua posizione era assolutamente insostenibile e che non sarebbe riuscito mai a prendere il posto di quel prete tanto acclamato dalla folla. Monsignor Chalandon nel 1853 lo promosse parroco di Ayat. Anche dopo la partenza Don Raimond godette della particolare benevolenza di Don Vianney che gli scriveva: Mi siete stato così utile e mi avete fatto tali servizi che avete un posto tutto vostro nel mio cuore. Io lo vidi 8 giorni prima della sua morte, disse in seguito Don Raimond, e non dimenticherò mai né la sua affettuosa accoglienza né la generosità con la quale mi donò un piviale. Appena intesi la notizia della sua fine, partii per Ars, ove ebbi la consolazione di abbracciarlo per l'ultima volta. Secondo l'invito avuto dai confratelli, nel giorno stesso dei funerali del santo, Don Raimond iniziò a scrivere una vita del curato d'Ars, di cui rimangono solo frammenti. Queste pagine, come le deposizioni al processo di canonizzazione, lasciano intendere l'ammirazione e la simpatia dell'antico vicario per Don Vianney. La pazienza nelle sofferenze corporali. Ma la pazienza del curato d'Ars, se fu straordinaria nelle sofferenze di spirito, non fu meno costante né meno considerevole nelle sofferenze corporali a lui causate dalle malattie. Anche di queste, per avere un'idea delle pene da lui sofferte, faremo un accenno, sia pure breve, dopo di aver sentito il racconto di coloro che godettero della sua confidenza. Al braccio sinistro aveva un cauterio che gli doveva essere particolarmente doloroso, perché è successo che qualche volta, quando i pellegrini lo serravano troppo da vicino, si lasciasse sfuggire, sia pure senza mostrarsi contrariato, questo lamento: «Adagio, mi fate male». Per ben 15 anni, dice Don Raimond, fu tormentato da reumatismi contratti nei primi giorni del suo ministero ad Ars, quando aveva scelto per camera un locale freddo ed umido. Ne ebbe come conseguenza dolori di capo violenti. Più volte fu visto portare la mano alla fronte e si intese questo gemito: «Oh, quanto soffro!» Per l'assenza di moto fu soggetto a stordimenti. Per curarli si sottopose ogni anno ad un salasso. Predicando, contrasse un'ernia doppia, della quale non si preoccupò molto. Si notò che quando usciva dal confessionale procedeva chino e i pellegrini se ne meravigliavano. La ragione fu conosciuta quando fu necessario l'intervento medico. Camillo Monnin afferma che il santo durante le visite non si sedeva mai. Può darsi che questa abitudine gli fosse suggerita da sentimento di cortesia verso gli ospiti, ma non doveva essere estraneo a questo comportamento il dolore che derivava dalle piaghe contratte nelle interminabili sedute al confessionale. Soffrì anche per mal di denti e più volte si raccomandò al maestro Pertinan perché gliene strappasse qualcuno con le tenaglie. Il fatto meraviglioso e che mentre il suo povero corpo era tormentato da così vivi dolori, il suo spirito rimaneva impassibile. Invano si sarebbe cercato nelle sue conversazioni o nel contegno un segno qualsiasi che ne indicasse il tormento. La contessa di Garez, che un giorno lo aveva invitato a benedire certi lavori, accortasi che soffriva terribilmente, lo invitò a prendere qualche cosa. Egli si accontentò di rispondere con un sorriso: «Mancherebbe altro che si prendesse qualche cosa ogni volta si soffre». Spesso, mentre faceva la preghiera della sera, lo si vide scomparire dal pulpito come vinto dal male. Ricompariva poi e predicava ancora come se nulla avesse provato. La mortificazione. Esempi più da ammirare che da imitare. La pazienza di San Giovanni Maria Vianney ci è parsa già un esempio meraviglioso che possiamo seguire. Invece, la sua mortificazione, portata fino ai limiti estremi delle forze umane, è anche più in là ancora. Si può forse considerare come un esempio da ammirare più che un modello da imitare. Il conte di Garez, che conobbe molto da vicino il santo, afferma che era riuscito a distruggere completamente il vecchio Adamo e che non ha mai accordato alla natura alcuna soddisfazione. La contessa di Garez aggiunge: «La sua mortificazione è stata costante, spinta fino all'eccesso e completa. La vita penitente di un trappista è nulla in confronto alla sua, e penso che la mortificazione cristiana non possa essere spinta oltre questi limiti. Quando si è vista la penitenza del curato d'Ars, non si prova più meraviglia leggendo quello che vi è di più straordinario nella storia dei padri del deserto. Un prete, Don Dufour, missionario di Pont-d'En, tenta anche di chiarirne le ragioni. La sapienza umana, afferma, può meravigliarsi di tali macerazioni di cui non si rende conto, ma l'uomo che liberamente vi si era sottomesso ne sentiva l'ispirazione e l'assistenza dall'alto. Del resto, non aveva detto egli stesso che nella vita della penitenza è solo il primo passo che costa? Rileviamo tuttavia che appunto per fare questo passo e giungere fino alla vetta di una così difficile virtù è necessario l'eroismo aiutato dalla grazia. Il confessionale del santo. Nella vecchia canonica d'Ars si contemplano riuniti come un trofeo di vittoria i cilici ed i flagelli di Don Vianney, ma lo strumento di penitenza più spaventoso non è là. Se si vuole osservarlo, bisogna andare in chiesa, nel luogo stesso ove il buon curato ha tanto patito, è il suo confessionale. Non si esagera se si afferma che egli si è crocifisso liberamente, diventando, secondo la parola d'un testimonio della sua vita, un martire della confessione. Se lo avesse proprio voluto, sarebbe certo riuscito a fuggire dai peccatori ed a nascondersi in un chiostro o in un deserto, ma l'amore grande per le anime gli consigliò sempre di rimanere ad Ars. Da giovane ha passato le giornate migliori in mezzo ai campi, respirando l'aria pura delle colline tanto care. Ora, anche nei giorni in cui un cielo dolcissimo consiglia le passeggiate, rimarrà al suo posto a disposizione dei poveri peccatori. Fin dai primi giorni della sua vita pastorale in Ars, soddisfacendo ad un bisogno del suo cuore sensibile che si espandeva davanti alle bellezze della natura, aveva percorso la ridente valle del Fomblain, ombreggiata dai pioppi. Ora, stando nella chiesa, non è separato da questo incanto che da poche case, e tuttavia per 30 anni rinuncia volontariamente a gustarne la freschezza e le ombre tranquille. Bastano alcune ore di confessionale per estenuare anche il sacerdote più robusto, che ne esce sfinito, incapace di fissare un pensiero, senza più né sonno né appetito, né volontà di ritentare la prova. E tuttavia, il curato d'Ars, nelle interminabili sedute al confessionale, compì un lavoro che regolarmente avrebbe estenuato 6 confessori. Don Raimond, che l'ha visto all'opera, dice che il sopportare tanta fatica gli parve tosto un fatto miracoloso. Diversamente, come spiegare che un prete in simili infermità, con un regime di vita tanto austero, abbia potuto passare, per così dire, la sua vita in confessionale? «La mia salute, grazie a Dio, è eccellente», continua Don Raimond, «ma io confesso che non avrei resistito una settimana al suo posto, e so che altri preti, pure abituati a confessare a lungo nei pellegrinaggi, hanno detto la medesima cosa». Ebbene, il confessionale, divenuto per lui tomba anticipata, fu il luogo ove ha maggiormente sofferto. D'estate, nella sua piccola chiesa, il caldo diventava così soffocante che, secondo la sua precisa affermazione, gli dava un'idea delle pene dell'inferno. Tormentato dall'emicrania, fu obbligato a tenere delle compresse sulla fronte anche mentre confessava. In più, nei giorni in cui l'afa diventava più opprimente, l'aria della piccola navata si corrompeva fino al punto da provocare vera nausea all'eroico confessore, che per resistere doveva aspirare aceto o d'acqua di colonia. Al contrario, durante l'inverno, in questa parte della Dom il gelo è intenso, soprattutto quando il vento di tramontana soffia dalle Alpi, e più volte il santo, mentre stava confessando, perdette i sensi per causa del freddo o delle sue infermità. Don Dubois gli chiede un giorno: «Come vi è possibile resistere così a lungo quando fa freddo senza usare nulla per riscaldare i piedi?» «Amico mio, la ragione è precisa. Dalla festa di ogni santi fino a Pasqua i miei piedi non li sento più». Il canonico Alessio Taillade di Montpellier, che passò con lui una parte dell'inverno 1839, riferisce che i piedi di questo povero prete erano in tale stato che alla sera la pelle del tallone rimaneva nelle calze. Talvolta, nel caritatevole intento di rendergli meno pesante la fatica, si collocarono nel suo confessionale cuscini imbottiti di paglia, ma egli non li tollerò mai. Ancora, durante l'inverno 1857-1858, Onde riuscire ad attenuare il freddo, si dovette ricorrere all'astuzia di approfittare ogni notte della sua assenza per mettere uno scaldapiedi sotto il suo confessionale, ingegnandosi a rinnovare l'acqua più riprese durante la giornata. Dapprima non se ne accorse, ed il giorno in cui si rese conto di questa astuzia lasciò fare per ragione della sua salute che si indeboliva sempre più. Anche nella sagrestia, dove confessava agli uomini, faceva così freddo che dovette talvolta bruciare un foglio di carta per portare un poco di sollievo alle sue mani intirizzite, ma non acconsentì che Don Toccanier portasse là una stufa fino al giorno in cui non gli si fece osservare che l'eccessiva umidità avrebbe in breve tempo guastati i paramenti. Per lungo tempo non usò riscaldare la sua camera. È ben vero che negli ultimi 15 anni il maestro Pertinan o uno dei fratelli della Sacra Famiglia durante l'inverno avevano cura di preparare un buon fuoco prima del suo arrivo, ma il santo non poteva più riscaldarsi ed anche il suo sonno doveva essere molto turbato. Così, al sopraggiungere della primavera, era facile comprendere anche dalle sue espressioni che quella era per lui, come per la natura, un'epoca di sollievo. Le discipline. L'assiduità al confessionale, con le pene di cui era causa, gli sarebbe bastata per raggiungere un alto grado di perfezione, ma era così avido di penitenza che tutto gli sembrava di poco conto e cercava le mortificazioni così come un altro va in cerca di piaceri. In questo modo si impose la penitenza di non gustare mai il profumo di un fiore, di non cibarsi mai di frutta e di non bere mai una goccia d'acqua neppure all'epoca dei più forti calori. Se una mosca si fermava sul suo viso, vi restava piacimento senza venir mai disturbata da questo grande penitente che approfittava di tutto, anche delle cose più piccole ed insignificanti, per tormentare il suo povero corpo. Inginocchiatosi, non si appoggiava mai, si era prefisso di non manifestare alcun disgusto e di tenere segrete tutte le ripugnanze della natura, e così soffocò ogni sentimento di curiosità fino al punto che non espresse mai il desiderio di vedere la ferrovia che passava a pochi chilometri da Ars e che gli conduceva ogni giorno così grande numero di pellegrini. Anima innocente, amò patire per gli altri e per 40 anni si fece martire per i poveri peccatori. Abbiamo visto con quale crudeltà, fin dai primi giorni del suo ministero in Ars, si flagellasse a sangue per ottenere dalla misericordia di Dio la conversione del suo caro popolo. L'effetto fu felice, ma anche quando vide i suoi parrocchiani convertiti assieparsi nella navata della sua piccola chiesa, non si tenne dispensato dall'usare i suoi strumenti di penitenza. Intanto, però, le forze si consumavano ed egli si vide costretto ad usarli con minore frequenza e con più benignità per il suo corpo, attendendo, tra le diverse flagellazioni, che le piaghe si cicatrizzassero. Don Taillade, nell'anno 1839, con l'aiuto di Caterina Lassagne, fece una visita minuta e scrupolosa nella camera del santo e scoprì sotto la tenda, in capo al letto, una disciplina di ferro molto robusta. Fratello Atanasio, che più tardi fece la medesima scoperta, nota che quella catena portava tutti i segni dell'uso a cui aveva servito. Un giorno scomparve e Don Vianney non si diede pace finché non poté sostituirla. Il medesimo fratello Atanasio aggiunge che il santo se n'era fabbricata un'altra, con anelli di catena molto ordinari, capaci di intaccare la carne ad ogni colpo. Qualche volta si era raccomandato a diverse persone di comperargli piccole catenelle, l'uso delle quali, anche se non era dichiarato, veniva presto intuito. Per una di tali commissioni si raccomandò un giorno a Maria Filiat, maestra alla provvidenza, la quale recisamente rifiutò e fu costretto a ricorrere ad un giovane che non era in grado di rendersi conto dell'uso che ne sarebbe seguito. Così pensò di poter ricorrere, senza sollevare sospetti, anche al maniscalco di Ars, Giovanni Picard, e gli ordinò una catena di ferro doppia, larga 4-5 centimetri e sufficiente a cingere il corpo. Giovanni Picard, lontano dal pensare al vero uso a cui doveva servire, accettò la commissione pensando si trattasse di cosa necessaria all'orologio del campanile che si stava riparando in quei giorni. Ma quando il giorno di Pasqua il curato si sentì male in chiesa e fu necessario portarlo nella sua camera, il maniscalco che lo aiutò a svestirsi scoprì la catena che cingeva le sue reni. Alle braccia portava un braccialetto armato di punte acute. Vedendo i suoi movimenti, sia in pulpito che all'altare, era facile accorgersi dei cilici e degli altri strumenti di penitenza di cui era coperto il suo corpo. Uno di questi cilici gli aprì un giorno una piaga che destò inquietudine perché avrebbe potuto causargli la cancrena. I digiuni. Tali mortificazioni rendevano il santo sempre più debole e ci si domanda come potesse ancora stare in piedi colui che viveva di quanto avrebbe fatto morire un altro uomo. Ricordiamo le penitenze che egli chiamò follie della giovinezza, col digiuno completo prolungato anche 2 o 3 giorni. Fin quando sarebbe durato questo regime? Caterina e le sue compagne pensarono che sarebbe cambiato nel 1827, quando il santo notificò a loro l'intenzione di prendere i pasti alla provvidenza e ritennero che queste disposizioni gli venissero imposte dal suo lavoro e dalla sua debolezza, ma disgraziatamente si ingannavano. Acconsentendo a prendere là i suoi pasti, non fece che insignificanti modificazioni alle sue abitudini e soprattutto continuò quel digiuno che fino a quel giorno era stato ininterrotto. Di solito arrivava alla cucina dell'orfanotrofio verso il mezzogiorno e trovava accanto al fuoco un piccolo vaso di zuppa o di latte, di cui si serviva immediatamente senza prendere, se non di rado, tutto quello che era preparato per lui. Qualche volta, invece, oltre la zuppa, prese anche qualche grammo di pane secco. Per lungo tempo, al mattino, non prese nulla e quando nel 1834 giunse la prescrizione di Monsignor De Vie, che in vista della sua debolezza gli ordinava di fare la colazione, cedette e si adattò a bere un poco di latte del quale si privava tuttavia nei giorni di digiuno. Fratello Atanasio dice di averlo osservato molte volte nelle quaresime del 1849-50-51 e di avere notato che non faceva se non un solo pasto al giorno. Invece talvolta lo si vide accettare, dopo il pasto, qualche particella di dolce di cui si privò affatto negli ultimi 2 anni della sua vita. Fino alla sua grave malattia del 1843 non prese mai nulla alla sera. Tale regime fu un poco mitigato dal 1854 al 1859 per ordine del dottor Saunier, che aveva creduto dovere insistere, e il santo allora gemeva: «Ora, quando vado a confessarmi, non mi trovo più così bene come prima», e si accusava di golosità. Quali siano stati i suoi pasti succulenti ce lo dice il suo confessore. «Ho assistito varie volte al suo desinare, servitogli nella camera dalle suore della provvidenza. Sopra un tavolo, senza tovaglia, vi era un piatto con legumi, alcune uova, un poco di carne, almeno nei giorni in cui era maggiormente affaticato, un po' di acqua, una bottiglia di vino ed un pezzo di pane. In meno di 10 minuti il suo pasto era finito. Mangiava in modo da non sentire il gusto degli alimenti e non prendeva mai carne senza avermi prima domandato il permesso. Alla fine del pasto si ritrovava nel piatto ancora quasi tutto il cibo, perché il santo si era accontentato di bere un poco d'acqua con pochissimo vino e di mangiare qualche pezzo di pane. Io ero vivamente colpito dalla sua estrema temperanza. Una libra di pane gli bastava per oltre una settimana. Un giorno, dice Camillo Monnin, entrato nella sua camera, vidi un piccolo pane nel quale era stato fatto un buco che poteva sembrare di un topo. Invece ne era stato staccato un pezzetto col quale il servo di Dio si era sostentato per buona parte del giorno. E venne il tempo in cui, per restringimento di stomaco, gli fu impossibile sopportare cibo in maggiore quantità di quello che prendeva abitualmente. Nei primi anni, quando vi erano riunioni ecclesiastiche ed il pranzo era preparato al castello, mangiava discretamente. Presto però ottenne di essere dispensato dall'intervenire a queste riunioni e considerò la dispensa come un grande favore. Per ottenerla aveva detto che lo si attendeva al confessionale e che egli voleva accontentare i penitenti.